Il punto di Stefano Folli. Né scissione né accordo. La minoranza del PD non è uscita bene dalla discussione sull'articolo 18 che doveva cambiare un'epoca. È stata sconfitta, e questo era nelle previsioni, ma sconfitta in modo scomposto, con un gruppo che si astiene e l'altro che vota contro. E questo proprio nel giorno in cui Renzi è apparso tutto sommato più cauto, più disposto ad alcune aperture al confronto. Si dirà che il Premier sapeva di essere comunque vincitore, ma in realtà stiamo parlando di un uomo che era anche consapevole di trovarsi in qualche difficoltà, perché è convinto, al di là della propaganda, di non poter spaccare il suo partito fino al punto di ritrovarsi poi da solo con Berlusconi. Invece la sinistra interna ha fatto, si può dire, tutto da sola, grandi attacchi verbali e poca strategia, il che stamane rende più evidente la fermazione politica di Renzi. In Parlamento poi sarà un'altra storia, ma la riforma oggi è più vicina. Se è quella che davvero serve alle imprese, anziché il solito pasticcio, lo capiremo più avanti.